Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera a Piercarlo Ceccarelli. Buonasera, buonasera Fabi, come stai? Molto bene, grazie. Piercarlo Ceccarelli è autore di Supereroi d'impresa. Creano prodotti e servizi che conquisteranno il mondo partendo dall'Europa. Un libro edito da Mind, è un libro che raccoglie molte, diciamo, confidenze anche di imprenditori ed è un'analisi su quella che è la realtà attuale delle imprese, in particolare delle imprese italiane ed europee. Allora, Ceccarelli, direi l'impostazione è quella di una sfida però in cui le imprese italiane hanno in fondo le carte in regola per combattere e magari anche per vincere. Assolutamente sì, noi siamo i più creativi e i più dinamici d'Europa, tutto sommato, non riesco a vedere diversamente le imprese italiane su quando poi guardo quelle, non so, ad esempio quelle francesi, ma anche quelle tedesche, penso che non abbiamo veramente nulla da invidiare rispetto a loro. Quindi abbiamo tanti talenti dalla nostra parte, però abbiamo sofferto più degli altri la crisi economica degli ultimi anni, come mai? Ma abbiamo sofferto perché certo i numeri erano brutti, ma abbiamo in qualche modo privilegiato la lettura macroeconomica invece che la microeconomica, cioè abbiamo privilegiato il contesto e ci siamo fatti appannare gli occhiali senza più riuscire a vedere chiaro, quando invece la forza nostra è dentro lo spirito imprenditoriale dei nostri capi azienda e della loro capacità di reagire agli eventi. Quindi il mio libro vuole essere una prevalenza della microeconomia sulla macroeconomia. Cioè una prevalenza sull'economia di impresa, ci sono imprese che vanno bene, imprese che vanno anche molto bene, purtroppo anche ci sono imprese che non vanno molto bene, nella media che è un po' grigia delle statistiche non si riesce a distinguere quelle che sono le imprese che vanno bene e quelle che possono ulteriormente crescere. Questo è anche, diciamolo così, un po' colpa dei giornalisti. Ma indubbiamente i giornalisti cavalcano le notizie esistono solo se sono colorate forte, quindi quando le tinte tenui non vanno bene. E devo dire che le nostre imprese che vanno bene sono quelle che sono inserite nei circuiti internazionali, quelle che vanno male sono quelle che sono bloccate sul mercato domestico, ma anche lì dobbiamo fare dei grandi distinguo, perché all'interno di una generale flessione dei consumi ci sono comparti, nicchie, spunti di grande interesse nei quali le imprese più avvedute, appunto l'imprenditore con una logica microeconomica forte, riesce a trovare le opportunità e a crescere. Ecco, nell'introduzione scrive: la crisi lascerà dietro di sé un mondo nuovo nelle aziende e nelle attività produttive, da una parte macerie, dall'altra un rinnovato spirito imprenditoriale e nuove competenze manageriali che sono formate nelle asprezze per superarle. Possiamo dire che la crisi è stata un po' un setaccio, un po' una selezione darwiniana in cui ha mantenuto in vita le aziende che hanno saputo difendersi, e quindi in questo senso l'economia adesso anche complessivamente può essere considerata più forte. L'economia europea, un'economia europea che è in primo piano in questo libro, è un'economia che ha ancora la capacità di competere con paesi come gli Stati Uniti, che hanno una grande capacità di crescere, e come la Cina o gli altri paesi emergenti, che hanno delle competitività di prezzo che sono ancora valide. È evidente che in Europa fino a ieri ci siamo confrontati sulle commodity e in quelle il prezzo la fa da padrone, quindi è chiaro che in quei comparti abbiamo perso smalto, ma era inevitabile e forse era anche, come posso dire, necessario che succedesse questo. Ed è chiaro che su quei comparti i paesi emergenti sono aggressivi come lo eravamo noi negli anni 50, negli anni 60, non dimentichiamocelo, ma noi in Europa abbiamo saputo attaccare la parte alta del valore aggiunto e lì siamo, diciamo, la nostra come gli Stati Uniti, forse meglio degli Stati Uniti. Rifkin nel 2005 parlava del sogno europeo perché aveva già letto nel nostro progetto europeo l'opportunità di creare la felicità delle persone attraverso il benessere di molti di noi. Ed è lì che si nasconde l'opportunità per le imprese di soddisfare nuovi bisogni, perché quello che non si coglie bene è il fatto che l'innovazione, cioè il fatto di rispondere a nuovi bisogni, trova terreno fertile se il mercato è in grado di poterli capire e li recepisce. Se il mercato invece non si occupa di quei bisogni, l'innovazione è bloccata. Ecco, nel libro c'è più volte il concetto di rinascimento, si è parlato spesso di rinascimento industriale negli ultimi mesi, qui si parla soprattutto di un rinascimento come capacità di trovare delle soluzioni nuove, dei problemi nuovi, che la nostra società del benessere è in competizione con le nuove economie, ma in competizione non deve essere una competizione che affrontiamo sullo stesso piano, ma dobbiamo quasi cercare di spostare questa competizione su altri piani, inventare e realizzare prodotti migliori che le economie emergenti non sono in grado di fare. Quindi la sfida dell'Europa è quella di trovare una competizione diversa, trovare una competizione non solo facendo bene i prodotti tradizionali, ma anche soddisfacendo quelli che sono i nuovi bisogni della società. Assolutamente, lì abbiamo quella che chiamo anche miniera d'oro, cioè dentro l'idea della qualità della vita, qualità del lavoro, benessere, sostenibilità, dietro questo modello esistono decine, centinaia, migliaia di nuove esigenze che stanno per essere scoperte e soddisfacendo le quali veramente l'Europa potrà riprendere un cammino di crescita che aveva perduto con il 2007-2008. Ecco, c'è un capitolo interessante dove si parla quasi in contrapposizione con la logica dell'high tech, dell'alta tecnologia, delle tecnologie sempre più evolute, sempre più perfezionate. Si parla di una riscoperta della semplicità. Può essere una provocazione o è qualcosa che deve entrare anche nella logica manageriale, il fatto di riscoprire quello che può essere semplice? Sì, certamente. L'alta tecnologia è stata, forse dai giornalisti, posizionata in un modo quasi idealizzato. In realtà tecnologia significa poter fare meglio le cose che si fanno o fare cose nuove attraverso metodi collaudati. Quindi diciamo la sfida più grande, più interessante, è forse quella di integrare ciò che già c'è piuttosto che di inventare cose che ancora non ci sono. E in questo processo di integrazione l'umanista, colui che capisce l'esigente dell'uomo, è capace di ricondurre a semplicità le funzioni che servono all'uomo. Ecco, in questa prospettiva c'è anche un altro problema che nel libro viene affrontato, che è quello dell'occupazione. C'è un capitolo in cui si dice più lavoro per tutti, imprese più forti. Il problema dell'occupazione è un problema molto forte, soprattutto come disagio sociale e soprattutto per i giovani. Ecco, i giovani come possono trovare delle possibilità in un sistema economico che sembra essere sempre più difficile, sempre più competitivo, in aziende che cercano soprattutto di ridurre i costi più che di cercare nuove prospettive. Forse anche le imprese devono sentirsi più forti per poter riprogettare una crescita. Beh, dunque, quel capitolo parte dall'assunto che il lavoro si trova nelle imprese. Tutte le altre discussioni fatte sul lavoro sono aria fritta, se vogliamo. Quindi le imprese possono dare più lavoro se sono imprese forti, e cioè imprese che sanno crescere nei comparti che hanno scelto di servire. Naturalmente, se parliamo dei giovani e parliamo di innovazione, mettiamo questo in relazione con le nuove esigenze, i nuovi bisogni, le nuove utilità che servono, il mio invito ai giovani è di esplorare quell'area. E molti di loro oggi stanno confrontando con le start-up, con iniziative nuove che non sono soltanto quelle delle app e quelle del digitale, ma sono quelle della salute, quelle del benessere, della qualità, dell'accompagnamento, della sostenibilità, e lì ci sono progetti nuovi nei quali loro possono svolgere un ruolo veramente importante. Ecco, Piercarlo Ceccarelli, economista di impresa, consulente di impresa, super consulente di direzione aziendale, in questo libro ci sono molte testimonianze, molti racconti anche di manager di alto livello, di imprenditori. Ecco, di solito gli imprenditori, i manager chiedono, diciamo così, le solite cose: meno tasse, più flessibilità sul lavoro, più facilità burocratica. Ecco, oltre queste cose, che cosa chiedono le imprese per poter affrontare la competizione internazionale? Cosa può fare la politica? Ovviamente, se riduce le tasse, se semplifica la burocrazia, è certamente una cosa utile, ma che cosa può fare di altro su questo fronte? Ma lasciare lavorare, lasciare libertà all'intraprendenza, creare un ambiente nel quale appunto non si diventi ingessati, bloccati, frenati, ma nel quale la creatività e la microeconomia possa esprimere se stessa nel modo più ampio e completo possibile, nel rispetto delle regole, nel rispetto degli altri, nel rispetto del bene comune naturalmente, ma rimuovere gli orpelli che oggi rendono veramente difficile fare impresa e fare crescita e fare sviluppo. Credo che questa sia veramente la domanda di fondo che tu trovi nei capi azienda che si stanno impegnando. Lasciatemi lavorare, datemi semplicemente un ambiente nel quale io non trovi degli ostacoli continui, degli inciampi, che non abbia tutto che mi rema contro, perché questo che ci dicono: io lavoro, voglio far prosperare la mia impresa e tutto mi rema contro. Ecco, se tutto non remasse contro, credo che avremmo veramente un grande vantaggio. Ecco, cercare un po' di superare il fatto di pensare all'impresa come qualcosa che è una mucca da mungere, ma invece è qualcosa che traina l'economia, che traina l'economia e con la capacità solo dell'impresa di creare posti di lavoro. Ecco, un'ultima domanda: detto tutto questo, guardando un po' al futuro, si può essere ottimisti non solo per sentimento, ma anche guardando alla realtà positiva, alla volontà operativa di tante persone che lavorano all'interno delle imprese che costituiscono questo tessuto produttivo italiano? Piercarlo Ceccarelli. Assolutamente sì, io sono positivo con dati dietro di me, con una visione razionale della realtà. Sono positivo perché trovo in questo paese una capacità di reazione e di innovazione che non ho trovato in tanti anni di vita professionale fatta nei paesi intorno a noi e lontani da noi. Quindi sono assolutamente del parere che avremo presto una ripresa tangibile e anche la macroeconomia segnerà l'effetto che i supereroi d'impresa che governano la microeconomia sapranno generare. Ecco, con questa prospettiva, grazie a Piercarlo Ceccarelli, chi vuole condividere questa prospettiva ottimista, dovremmo condividerla un po' tutti, può leggere il libro Supereroi d'impresa, creano prodotti e servizi che conquisteranno il mondo partendo dall'Europa, l'edizione è Mind, sono 190 pagine per 19 euro. Grazie a Ceccarelli, grazie anche a Gianmarco Ferronato in regia e a Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie ancora, buona serata.